Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È stata rivista al rialzo la stima di crescita dall'Istat, più 1,2% per il PIL del primo trimestre rispetto ad un anno prima. Renzi dice non basta, ora avanti col taglio delle tasse. Accordo tra la Commissione Europea e l'Italia sul Monte dei Paschi, salvi i correntisti e gli obbligazionisti senior, non azionisti e obbligazionisti subordinati che dovrebbero essere chiamati a partecipare. Clima si attende alla decisione di Trump, ma la Cina intanto fa sapere che aderirà all'accordo di Parigi, inefficace senza gli Stati Uniti, dicono da Mosca. È stata aperta un'inchiesta su un ministro francese per favoritismi alla moglie, Ferrand, segretario di En Marche, il movimento di Macron, escluse ad ora le dimissioni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook dalla quale come ogni giorno andiamo in diretta anche video, www.facebook.com/effettogiorno. Tra l'altro ci stanno lavorando le ottime colleghe Dina Cicciarella e Valeria Usiello, e abbiamo da ieri sostanzialmente anche i sottopagini, che sono quelle scritte sotto nei quali vi si dice sostanzialmente con chi stiamo parlando al telefono e chi stiamo intervistando. Si sta lavorando, vedremo quali altre evoluzioni riusciremo a mettere in questa diretta video. Intanto vi aspetto anche là, e se volete potete commentare anche là se vi aggrada. In apertura dunque i dati diffusi dall'Istat. L'Istat ha rivisto a sorpresa e in deciso rialzo i dati sulla crescita dell'economia italiana, che nei primi tre mesi dell'anno segna un più 0,4% rispetto al trimestre precedente e un più 1,2% su base annua. Le prime indicazioni dell'istituto, diffuse a metà maggio, davano il prodotto interno lordo in crescita, ma in maniera più debole. Si tratta del rialzo più forte dal 2010 e che ha riportato il livello del PIL ai valori del secondo trimestre del 2012, recuperando circa 5 anni. La revisione a sorpresa è dovuta, spiegano dall'Istat, all'integrazione nei dati della buona performance dei servizi, che ottengono su base annua il rialzo maggiore, più 1,2%. Bene il settore del credito, assicurazioni, attività immobiliari e servizi professionali, e quello che raggruppa le attività del commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni. L'Italia cresce più del previsto e l'impegno continua, scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, mentre l'ex premier Renzi su Facebook sottolinea come gli ultimi dati economici siano figli degli anni di lavoro serio e rigoroso che abbiamo alle spalle. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla vicenda Monte dei Paschi. Oggi è arrivato l'accordo con Bruxelles. Si prevede tra l'altro che azionisti e obbligazionisti subordinati contribuiscano ai costi. Sentiamo. Dopo quasi 6 mesi di trattative, l'accordo per il salvataggio di MPS è arrivato. Un accordo di principio, quello raggiunto quest'oggi tra la UE e il Tesoro italiano, è che è condizionata alla conferma da parte della BCE che la banca è solvente e all'acquisto dei 26 miliardi di sofferenze da parte degli investitori privati. Ma è chiaro che l'ok preliminare di oggi mette in discesa il percorso per la ricapitalizzazione precauzionale da 8,8 miliardi, di cui 6,6 iniettati dallo Stato. L'intesa prevede che i costi della ricapitalizzazione siano condivisi con azionisti e detentori di bond subordinati, mentre per gli obbligazionisti retail si prospetta un rimborso in caso di vendita fraudolenta. Fuori da ogni rischio invece i correntisti. Allo stesso tempo MPS prenderà una serie di misure per aumentare l'efficienza, tra cui un tetto agli stipendi dei manager della banca, fissata 10 volte il salario medio dei dipendenti, da mettere in conto anche gli esuberi al personale, per cui si parla di almeno 5.000 tagli. Ora ci vorrà qualche settimana per definire in maniera più dettagliata il piano di ristrutturazione. Solo a quel punto potrà scattare il via libera all'aumento e al definitivo ingresso dello Stato, previsto per luglio. Luca Davi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sono ore delicate queste dal punto di vista politico, ore nelle quali si ragiona di manovra e di legge elettorale, si approfondiscono le divisioni all'interno della maggioranza. Elisabetta Fiorito per un punto di giornata. Eccoci Elisabetta. Allora, alle 15.30 si saprà se il governo è destinato ad andare verso la crisi oppure no. Angelina Alfano convoca la direzione di AP dopo le proteste sullo sbarramento al 5% della legge elettorale, che potrebbe fatto portare alla loro scomparsa. Angelino Alfano vorrebbe unire le forze di centro, ma il futuro leader Stefano Parisi non raccoglie la sfida. Ieri Matteo Renzi ha di fatto scaricato Alfano. Se dopo anni che sei stato al governo, ha detto il segretario PD, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5%, è evidente che non possiamo bloccare tutto. Slitta martedì 6 giugno l'approdo legge elettorale in questo momento, e tutto si intreccia anche con il no di MDP alla manovra economica ufficialmente per protestare contro l'inserimento dei voucher, ma anche per la soglia al 5%. Il patto sulla legge elettorale tra PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle però regge, è un accordo, spiega Luigi Di Maio, non è un inciucio e annuncia le primarie pentastellate in estate per scegliere il candidato che presenterà la squadra di governo. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, con la quale abbiamo avuto qualche problema di collegamento, naturalmente ce ne scusiamo e vedremo di risistemare le cose affinché i prossimi siano migliori. Come si sta muovendo il Movimento 5 Stelle? Qualcosa ci accennava poco fa Elisabetta Fiorito, ebbene sentiamo il servizio di Andrea Viali. Primarie online in estate per scegliere il candidato premier che presenterà la sua squadra di governo prima del voto. Il Movimento 5 Stelle si prepara così all'ipotesi di elezioni anticipate in autunno. A tracciare la roadmap grillina è Luigi Di Maio, che intervistato da Repubblica ribadisce che saranno gli iscritti a decidere se sarà lui a correre per Palazzo Chigi. Quanto all'accordo sulla legge elettorale, non è un inciucio, assicura il vicepresidente della Camera. Partecipiamo all'intesa sul modello tedesco perché stavolta la proposta è seria e per soddisfare la richiesta di Mattarella, spiega Di Maio, che definisce poi una buona notizia la disponibilità ad entrare in politica, arrivata ieri dal magistrato Nino Di Matteo nel corso di un convegno organizzato dai pentastellati. Pubblica accusa nel processo di Palermo sulla trattativa Stato-mafia, Di Matteo era già arrivato terzo alle Quirinarie 5 Stelle e i grillini ora pensano a lui per il Ministero della Giustizia o in alternativa per quello degli interni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ultimo consiglio di amministrazione per Antonio Campo Dall'Orto alla guida della RAI. Si sta scegliendo il successore. Un CDA per portare le proprie dimissioni e insieme l'intenzione di rinunciare alla buonuscita come segno di garbo istituzionale. L'ultimo CDA per il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, dovrebbe svolgersi in un clima più sereno dopo le frizioni degli ultimi mesi, culminate nella bocciatura del piano news messo a punto dallo stesso manager veneto. Al CDA spetterà prendere atto della risoluzione contrattuale, poi una volta trovata l'intesa sul successore, sarà la presidente Maggioni a convocare una nuova riunione del CDA, che dovrà proporre uno o una rosa di più nomi all'azionista. Secondo le indiscrezioni potrebbe svolgersi in realtà tutto nel giro di 24 ore a metà della prossima settimana. La stretta finale sul nome invece è attesa tra il fine settimana e lunedì. L'ipotesi interna resta privilegiata. In pole position ci sarebbero l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Dal Brocco e Claudio Cappon, che però in quanto pensionato non dovrebbe percepire stipendio. Entrambi godrebbero dell'appoggio della presidente, ma non è escluso che sia la stessa Maggioni ad assumere l'incarico di direttore generale, con Marco Fortis, consigliere indicato dal Tesoro, a fare da presidente. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Veniamo adesso alla politica internazionale che in queste ore ci parla soprattutto dell'accordo sul clima di Parigi e dopo le indiscrezioni che si sono diffuse ieri, secondo le quali Trump si sarebbe ritirato appunto dall'accordo di Parigi. Le dichiarazioni dello stesso Trump via Twitter, il quale ha detto, insomma, ve lo farò sapere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ebbene oggi ne parla anche la Cina e non solo la Cina. Sentiamo. Tra qualche ora sapremo se gli Stati Uniti saranno dentro o fuori dall'accordo sul clima. O a mezza via, chi lo sa, magari il presidente twitterà un altro cofefe e saremo tutti qui a fare l'esegesi di un messaggio scritto tra il lusco e il brusco davanti a Fox News. Comunque, se anche decidesse di restare, è chiaro che non è il caso di lasciare a Donald Trump lo scettro del comando della coalizione nata per contenere il riscaldamento del pianeta. A Washington l'aveva portato Barack Obama, scippandolo agli europei, partiti per primi ma poco capaci di persuadere gli altri. Obama invece nel giro di poco seppe coinvolgere la Cina, il primo paese al mondo per emissioni di gas serra. E che sia ora una questione di cuore o di business, il fatto è che i cinesi non intendono più fare passi indietro da quell'accordo. Non è nel loro stile però mettersi a fare i condottieri. È quel tipo di visibilità che piace di più a Parigi, per esempio, ma che in questo caso potrebbe rivendicare anche Berlino. Londra per ora ha altri pensieri e comunque non dimentichiamo che nel 2015 il premier Cameron firmò con la sinistra gli accordi di Parigi e con la destra le sovvenzioni per i combustibili fossili. Il bello sarebbe per noi se Bruxelles sapesse cogliere l'occasione, facendo capire ai duri d'orecchie, che in Europa ci sono e come, che un taglio al carbone oggi saranno tra l'altro un'Asia e un'Africa più pacifica domani, con meno guerre e migrazioni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero. Evidentemente questa questione delle mogli deve essere una caratteristica costante della politica francese, perché ricorderete che prima delle elezioni c'è stato il caso di Fillon, candidato alle presidenziali, e del suo problema appunto con la moglie e i soldi indebiti da lei percepiti. Ebbene, nei guai sta finendo anche un ministro attuale francese. Sentiamo. La Procura della Repubblica di Brest in Bretagna ha aperto un'inchiesta sui fatti attribuiti in questi giorni da diversi media francesi al ministro della coesione territoriale, segretario generale di En Marche, Richard Ferrand. Le indagini dovranno verificare se il fedelissimo collaboratore di Macron abbia favorito la moglie. Di questo parlava la settimana scorsa un settimanale satirico ed inchiesta francese che aveva denunciato Ferrand di favoritismi verso la consorte nella transazione immobiliare e effettuata in nome delle ASL di Bretagna, di cui all'epoca era direttore. Ci sarebbe poi anche l'altra questione, quella del figlio, che sarebbe stato stipendiato per qualche mese come collaboratore parlamentare. Il presidente Emmanuel Macron, che lo sostiene a spada tratta, ha ripetuto che eventuali dimissioni sarebbero giustificate solo se il ministro fosse indagato personalmente. La stessa procura giorni fa aveva rifiutato l'apertura dell'inchiesta sulle iniziative immobiliari controverse del ministro, ma questa mattina l'ha svolta dopo gli appelli di molti esponenti politici dell'opposizione e di associazioni anticorruzione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sta creando non poche polemiche in queste ore il piano per lo smantellamento dei campi Rom annunciato ieri dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. È un progetto di smantellamento che prevede, tramite i fondi europei, che le famiglie di Rom che lasciano le baraccopoli o i campi Rom ricevano fino ad 800 euro al mese per trovare un alloggio e per trovare una sistemazione. Stiamo cercando tra l'altro un interlocutore su questo, abbiamo provato con l'assessore sociale Laura Baldassare, che ci ha detto che non poteva. Intanto, qualche problema nella notte dal punto di vista della cronaca c'è stato invece a Torino. Sentiamo. Tornano i roghi e le tensioni intorno al campo nomadi di strada Germanasca a Torino. Ieri sera è divampato un incendio che ha coinvolto rifiuti e masserizie accatastate in un'area del campo. Era già successo in passato, ora l'emergenza ritorna. Una colonna di fumo scuro ha interessato l'intera zona. Alcuni residenti del quartiere, nella periferia nord di Torino, qualche decina di persone, scesa in strada per protestare, bloccando il traffico lungo l'arteria di Corso Vercelli per ore. Il rischio sanitario collegato al fumo e al rogo di materiali plastici rappresenta la preoccupazione principale in quella zona. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ma sul posto sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per prevenire scontri con gli occupanti del campo. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Restiamo a Torino però per parlare di tutt'altro argomento, perché è stato presentato il Salone dell'Auto. Ecologia e tecnologia sono queste le due corsie su cui le case automobilistiche corrono il Gran Premio dell'innovazione. Ma non parliamo di Formula 1. Già tra qualche anno sulle nostre strade circoleranno auto che si guidano da sole e avranno consumi sostenibili. È la previsione di Andrea Levi, presidente del Salone dell'Auto di Torino. I trend delle case automobilistiche guardano molto a quelle che possono essere nuove tecnologie, sia in termini di motorizzazione, quindi tecnologie elettriche o ibride, e anche in termini della cosiddetta guida assistita. Il Salone dell'Auto sarà la prima uscita in società per i modelli in anteprima nazionale, ma anche una vetrina per il presente del settore automobilistico. Avremo 56 brand, quindi praticamente tutte le principali case automobilistiche sono presenti, diverse anteprime nazionali, sono 26 le anteprime nazionali, e abbiamo dalle microcar elettriche alle city car, ai SUV, alle sportivissime, alle macchine da famiglia. Per gli appassionati delle quattro ruote, l'appuntamento col Salone è al Parco del Valentino di Torino dal 7 all'11 giugno. Daniele Zinni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Oh, tra l'altro ci saremo anche noi al Salone dell'Auto di Torino, ci sarà Effetto Giorno, ci troverete, ci sarà Radio 24 in genere, avremo una nostra postazione, ci sarà in diretta anche Effetto Giorno, se volete venirci a trovare ci trovate l'8 di giugno, la settimana prossima, quindi insomma ci trovate là per la diretta di Effetto Giorno da Torino. Altro evento al quale siamo presenti, al quale siamo legati da molti anni, è il Festival dell'Economia di Trento che si apre oggi. In Gabon 5 bambini su 100 muoiono nel primo anno di vita. Negli Stati Uniti il rapporto è di 5 a 1000. E sempre restando negli Stati Uniti, chi risiede nelle zone rurali ha un'aspettativa di vita molto più ridotta rispetto a chi abita nei grandi centri. Pure in Italia le differenze sono nette. Chi è più povero e ha un livello di istruzione molto basso vive mediamente 5 anni e 2 mesi in meno rispetto a chi invece ha una laurea. E in genere le aspettative di vita sono più alte nel nord est, più basse nel sud, nelle isole. La salute disuguale è il tema portante dell'edizione 2017 del Festival dell'Economia di Trento, che oggi apre i battenti. Accademici, premi Nobel, politici, ministri, medici metteranno in circuito riflessioni e proposte a sostegno di un modello più giusto nel rispetto di un diritto fondamentale. 111 incontri, 270 esperti, oltre 200 giornalisti accreditati dall'Italia e dall'estero e pure dalla Cina. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo subito dopo per il nostro giro per l'Italia. Siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, così come su quella di Radio 24, in diretta video. Vi dico già subito, lo dico all'ascoltatore Matteo che ce l'ha chiesto, che se faremo oggi l'aggiornamento su Igor, visto che domani è festivo, sulle ricerche di Igor no. Oggi abbiamo deciso di risparmiarcelo. Domani Effetto Giorno, ve lo dico, non sarà in onda, facciamo ponte, cioè ci fermiamo il venerdì, e però dato che ne abbiamo parlato giusto martedì delle ricerche di Igor, per oggi abbiamo deciso di fermarci, magari riprendiamo da lunedì stesso. Parleremo invece di questa vicenda che ai nostri occhi ha dell'incredibile, ha chiaramente delle spiegazioni, però ai nostri occhi ha dell'incredibile questa vicenda di un avvocato che è stato condannato per camorra da tre tribunali diversi, coinvolto nei processi per le minacce anche lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. Ebbene, può tornare ad esercitare la professione. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'Istat che ha visto al rialzo la stima di crescita, dell'accordo tra la Commissione Europea e l'Italia sul Monte dei Paschi, un preaccordo, in realtà ci sono una serie di passaggi formali, quindi l'accordo non è in realtà definitivo. Abbiamo parlato del clima perché si attende la decisione di Trump, mentre la Cina fa sapere che aderirà all'accordo di Parigi, e abbiamo parlato dell'inchiesta aperta su un ministro francese per favoritismi alla moglie, tra l'altro è il segretario di En Marche, che è il movimento di Macron, quindi dal punto di vista politico anche una cosa piuttosto pesante. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, prima ancora però di andare alla vicenda di Napoli, dell'avvocato del quale vi accennavamo poco fa, una vicenda ben raccontata oggi dal quotidiano La Repubblica, di un avvocato condannato per legami con la camorra e che però può tornare ad esercitare la professione, e cercheremo di capire perché. Fatemi dire una cosa. Allora, ieri, o meglio lunedì, abbiamo parlato della vicenda Blue Whale, di questo presunto gioco che è in realtà una bufala che prevede una 50 regole fornite da un tutor e fornite via social network, via WhatsApp a dei ragazzini, 50 mosse che poi condurrebbero questi ragazzini al suicidio. Abbiamo raccontato dell'origine di tutto questo, del fatto che in realtà fosse stata una cosa gonfiata da alcuni mezzi di informazione, sia un po' di quotidiani, sia alcuni mezzi di informazione online, sia prodotti televisivi come Le Iene, e vi abbiamo anche raccontato di come alcune di queste storie che stavano venendo fuori sui giornali non fossero in realtà confermate. Anche oggi la notizia che arriva pochi istanti fa dalla questura di Milano, dalla procura di Milano, ci sono molti fascicoli per autolesionismo, sono una decina i fascicoli, ma al momento, da quanto si è saputo, riferisce l'ANSA, non ci sono riscontri sul fatto che i casi al vaglio possano rientrare nel cosiddetto blue whale. Quindi, come vedete, si lanciano allarmi e poi in realtà questi allarmi hanno spesso poco fondamento. Franco Tortorano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Franco Tortorano è presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Allora, no, preciso, Consiglio distrettuale di disciplina. Consiglio della distrettuale Corte d'Appello di Napoli. C'è una disciplina che riguarda tutti i consigli dell'ordine del distretto. Sono 7 consigli dell'ordine. 7 consigli dell'ordine. Va bene. Ok, quindi distrettuale. Allora, parliamo della vicenda dell'avvocato Michele Santo Nastaso, che per i giudici nel corso del maxi processo d'appello Spartacus firmato, leggo dal pezzo della Repubblica, e letto alcune minacce contro lo scrittore Roberto Saviano e contro i magistrati Federico Cafiero De Rao, Raffaele Cantone e la giornalista Rosaria Capacchione, adesso tra l'altro parlamentare del Partito Democratico, è stato giudicato da 3 tribunali della Repubblica come un complice di fatto del clan dei Casalesi. E però quest'uomo può tornare ad esercitare la professione di avvocato. Ho capito bene? Ma guardi, chiariamo bene un concetto. L'avvocato Santo Anastaso è stato condannato dal Tribunale Santa Maria Capavetere e è in corso, a quanto ci risulta, l'appello avverso le sentenze. Vabbè, questa premessa. Però il primo grado c'è, no? Sì, il problema è questo. L'avvocato Santo Anastaso è stato sospeso cautelarmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capavetere quando vigeva ancora la vecchia legge sull'ordinamento forense, che poi è stata cambiata con legge del 2012, 31 dicembre 2012, la 214, la quale è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 ed ha assegnato tutte le procedure disciplinari che erano in corso presso i singoli consigli distretti della Corte d'Appello di Napoli, il caso di Cade di Napoli, al Consiglio distrettuale di disciplina. Fatta questa premessa, quando ci è pervenuto dal Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capavetere il fascicolo relativo all'avvocato Santo Anastaso, c'era nel fascicolo tutta una procedura sospesa all'esito del procedimento penale e nella quale era stato anche sospeso cautelarmente l'avvocato Santo Anastaso. Perché? Secondo la vecchia normativa, cioè quella in vigore fino al 31 dicembre 2014, la sospensione non aveva limite. Mi scusi, Tortorano, però intanto c'era... Sennò rischiamo di non capirci niente. Ma non ho capito, questo Santo Anastaso può tornare ad esercitare la professione di avvocato oppure no? No, nel modo più assoluto, perché lui teoricamente, siccome lui... io le voglio spiegare perché. Perché se lei mi pone questa domanda... Il pubblico che ascolta dice gli avvocati sono dei pazzi. Noi non siamo dei pazzi, noi seguiamo la legge. Che cosa è successo? Che con la nuova legge la sospensione cautelare non può superare un anno. Mi segue? Sì. E poiché era stata già comminata per tanto tempo, quando è stato assegnato il fascicolo al nostro distrettuale di disciplina e io l'ho assegnato a sezione, una sezione composta da 5 membri effettivi e 3 supplenti, di cui uno è il presidente e un altro è il segretario. Prego, Tortorano, però semplifichi un po' per gentilezza, allora, cioè io capisco che c'è tutta una complessità dietro tutto questo, però allora quando c'è complessità non si può uscire con dei titoli roboanti: avete riabilitato l'avvocato Santo Anastaso, perché non abbiamo riabilitato nessuno. Nel momento in cui per legge la sospensione poteva durare al massimo un anno, il consigliere istruttore della sezione, avvocato Fabio Foglia Manzillo, ha proposto alla sezione la revoca della sospensione cautelare comminata da Santo Anastaso dal Consiglio di Santa Maria Capavetere. E lo ha fatto nel 2016, a marzo 2016, quando era passato un anno e 3 mesi dall'inizio della nuova disciplina che prende al massimo. Per me è una cosa importante. Allora, ho capito. Allora, Tortorano, la cosa che ho capito io, da tutto il discorso che mi ha fatto, la cosa che ho capito io è questa. Allora, c'è una regola, no, che disciplina l'ordine e non si può prescindere da questa regola. Però lei dall'altra parte mi sta dicendo. Però aspetti, lei dall'altra parte mi sta dicendo l'avvocato Sant'Anastaso comunque non può tornare ad esercitare. Perché non mi permetto di dirlo. Non mi permetto di dirlo. Poi le voglio dire. Ma quindi può tornare ad esercitare o no? Teoricamente potrebbe tornare ad esercitare, teoricamente. Poi c'è il fatto che c'è poi il processo disciplinare in corso, in ordine al quale stiamo portando avanti il processo disciplinare, ma su questo c'è una problematica di fondo molto importante, perché non è, per moltissimi e anche recentemente dalla Corte di Cassazione, quando ci sta appello verso la sentenza di primo grado, non si può combinare la sanzione. Nel caso di specie la sanzione sicuramente sarebbe molto grave, quindi si potrebbe dire radiazione. Però se anche poi l'avvocato Sant'Anastaso dovesse proporre reclamo avverso la radiazione, potrebbe continuare continuare ad esercitare, potrebbe continuare a fare la professione. Quindi non è un problema nostro. No, ma io l'ho capito. Ma io, guardi, Tortorano. Allora, io lo semplifico per gli ascoltatori, perché io, guardi, mi stanno mandando dei messaggi che non le dico. Insomma, qualcuno cita il Conte Mascetti per darle un'idea, insomma, di amici miei. Però, da quello che abbiamo capito, sono le regole e voi dovete applicare queste regole. E in base a queste regole, in tutta teoria, l'avvocato Sant'Anastaso può continuare. Potrebbe continuare. È interdetto dai pubblici uffici e poiché è al domicilio coatto, le dico che non potrebbe, secondo me. È un altro problema, però. Ok, però quella è un'altra cosa. Interdetto ai pubblici uffici. Ha il domicilio coatto a Milano e quindi nella pratica italiano, come questo dire, è emanato e questo nella pratica non può farlo. Nella pratica, secondo me è una legge folle, se lo vuole sapere. Questo è la ringrazio. Grazie all'avvocato Franco Tortorano per essere stato con noi. Siamo invece in linea con Andrea Coia e ci spostiamo a Roma, presidente della commissione nel Campidoglio e quindi del Consiglio Comunale di Roma, che si occupa di commercio. Coia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Questo perché l'abbiamo chiamata? Perché c'è una norma in fase di approvazione, una normativa in fase di approvazione. Adesso non la prego di non mettersi anche lei a precisare con gli articoli di legge, perché sennò tra Tortorano e lei diventiamo matti, che alcuni vedono come una sostanziale sanatoria per 11.000 di quelle bancarelle che vediamo in giro per Roma e che un po' la città deturpano, francamente, Coia. È così o no? Assolutamente no, questa è una falsità che è stata raccontata da molti e che chiunque legge il provvedimento, il nuovo regolamento del commercio su Repubblica, può rendersi conto che non è vera. Non c'è alcuna sanatoria, ci sono strumenti forti per combattere il degrado e per ripristinare il decoro e la legalità. Questo è il regolamento. C'è la limitazione dei posteggi per titolare e per famiglia anagrafica, queste le dico le cose principali, poi ci sono sanzioni aggiuntive rispetto alla legge, sanzioni regolamentari, poi ci sono la possibilità della revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, ci sono criteri di qualità per fare i bandi, c'è l'osservatorio del commercio dove si introducono anche i cittadini, c'è la possibilità di rilanciare i mercati con la somministrazione e il consumo sul posto. Ecco, le dico solo le cose principali. E non vengono sanate le posizioni abusive? Assolutamente no, falsità che è stata detta riguarda le licenze cosiddette anomale, che non sono licenze abusive, sono licenze concesse dalle passate amministrazioni, prima del 2000 probabilmente, quello è il tempo, in cui il luogo dove esercitare non era ben definito, quindi c'era una via senza il numero civico, oppure c'era un'area. Queste licenze in parte sono già state convertite, quelle che erano convertibili nel passato dalle precedenti amministrazioni. Quante di queste licenze fanno riferimento alla famiglia di Tredicine, che è la famiglia anomale? Io non so dirlo sulle anomale, sinceramente. Dovrebbe saperlo, perché questo è è politicamente rilevante, oltre che rilevante, no, da un punto di vista di giustizia, no? Guardi, di solito quel cognome è associato piuttosto alle caldarroste o i camion bar, insomma. Sulle anomale, io le poche diciamo, i cui cognomi che leggo sulle cose non mi risultano di quel tipo, insomma, anche perché parliamo di un periodo lontano. Credo che si tratti di altre famiglie o altri operatori, però la possibilità è data ai municipi di intervenire, quindi i municipi decidono poi se la licenza anomala che ricade sul loro municipio deve essere dato il diniego o se può essere confermata con una localizzazione precisa. Questo dice l'ultimo emendamento. Quindi non resterà, come dire, il SUC a cielo aperto che molti paventano, Coglia? Allora, il SUC è in 80-90% dovuto all'abusivismo e noi stiamo cercando di combatterlo in altra maniera, purtroppo con mezzi inadeguati. Stiamo cercando di potenziare questi mezzi e di usare più intelligence piuttosto che braccio, insomma. E la normativa aiuta a combattere quel 20% di mancanza di decoro che poi viene dai regolari che a volte, come sanno tutti i cittadini, si allargano oppure appendono i panni, insomma, gli aggetti tendari, oppure esercitano in un luogo dove non dovrebbero esercitare. Là qui ci saranno maggiori controlli, qui si danno più poteri alla polizia locale affinché possa intervenire in maniera efficace, quindi con sanzioni certe, fideiussioni che garantiscono quel pagamento. La ringrazio, grazie Andrea Coglia, Presidente della Commissione Capitolina del Commercio, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi il nostro giro per l'Italia. Beh, siamo alla vigilia del 2 giugno, la festa della Repubblica, e c'è un posto dove c'è un sindaco leghista, e non è nemmeno un posto piccolo, perché si tratta di Saronno, dove quest'anno non si festeggia per niente. Gli anni scorsi grandi feste, paracadutisti che atterrano in piazza, eccetera eccetera, e da quest'anno niente. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. I nostri titoli: è stata rivista al rialzo la stima di crescita dall'Istat, più 1,2% per il PIL del primo trimestre rispetto ad un anno prima. L'accordo tra la Commissione Europea e l'Italia sul Monte dei Paschi, salvi i correntisti, gli obbligazionisti senior, non gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati. Clima: si attende la decisione di Trump, ma la Cina intanto fa sapere che aderirà all'accordo di Parigi, inefficace senza gli Stati Uniti, dicono da Mosca. Aperta un'inchiesta su un ministro francese per favoritismi alla moglie. È il segretario di En Marche, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Terapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Pefalina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. E vabbè, che dobbiamo fare? Ce l'avete chiamata, non ce ne voglia l'avvocato Tortorano che abbiamo avuto ospite poco fa, che appunto fa parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine Distrettuale, mi sembra di aver capito, se ricordo bene, degli avvocati di Napoli, che ci ha cercato di spiegarci meglio e raccontarci questa cosa dell'avvocato Sant'Anastaso condannato per camorra, che può teoricamente tornare ad esercitare. Insomma, ecco, non so come dire, avvocato Tortorano, che conosce benissimo le norme che riguardano e disciplinano l'ordine, dal punto di vista della spiegazione radiofonica ha lievemente difettato. Facciamo una cosa, ci mancano 4-5 minuti, parliamo del 2 giugno. Allora, entriamo sul Lino d'Italia, ce ne vogliono gli ascoltatori che già si sono messi in piedi e si aspettavano di sentirlo tutto con la mano sul cuore. Abbiamo in linea Alessandro Fagioli, sindaco di Saronno. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Lei si mette in piedi quando sente l'inno? Quando in veste istituzionale mi metto in piedi. Se sono a casa e vedo una partita, sto seduto. Sta seduto, vabbè, insomma, in molti lo fanno, non è che tutti si alzano in piedi quando guardano la partita per l'Inno d'Italia. L'abbiamo chiamata perché abbiamo scoperto che, insomma, le celebrazioni per il 2 giugno da voi di fatto non si fanno più, perché, insomma, prima c'era una discreta celebrazione, c'erano addirittura, ho letto, i paracadutisti che venivano fatti atterrare, grandi cerimonie, e da quando c'è lei sindaco le cose non funzionano più così sostanzialmente, e anche il tricolore come fascia si vede un po' di meno, capito bene? Allora, ci sono cose vere, veritiere, strumentalizzazioni. Allora, innanzitutto, le feste nazionali 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre si celebrano nella capitale e nei capoluoghi di provincia. Gli altri comuni non sono tenuti a organizzare celebrazioni. Quest'anno, per motivi di ordine pubblico, abbiamo preferito non organizzare. Tra l'altro, la questione dei paracadutisti a cui accennava era un'attività organizzata, diciamo, in proprio e liberamente dall'Associazione Paracadutisti, che quest'anno li ho sentiti e hanno, per loro motivazioni, non hanno voluto organizzare. Quindi non si tratta di aver cancellato attività preorganizzate, si tratta soltanto di non averla organizzato una cerimonia istituzionale per motivi di ordine pubblico. Niente alzabandiera, niente discorso suo, nulla di tutto ciò. No, è stato fatto l'anno scorso, quest'anno non l'abbiamo organizzato per una serie di motivi, come ho comunicato alla stampa per motivi di ordine pubblico, ma che poi dopo ho visto che mi hanno costruito sulla stampa nazionale la questione delle fasce, mica fasce, queste cose qua. Ma qual è la questione di ordine pubblico, sindaco? Allora, a Saronno, quando ci sono queste attività, ci sono, diciamo, facinorosi che ne approfittano per venire a fare scritte sui muri, imbrattare il centro, venire a fare queste attività. Una volta tanto abbiamo voluto risparmiare questo scempio ai saronnesi, anche perché poi c'è anche da dire una cosa, che chi oggi contesta questa scelta, quando è il 25 aprile, per motivi ideologici ci non partecipa. Chi invece partecipa il 25 aprile poi non viene il 4 novembre. Quindi anche queste celebrazioni vengono sempre interpretate in maniera ideologica, quando fa più o meno comodo. Quindi anche chi oggi va sulla stampa a chiedere dimissioni al sottoscritto, piuttosto che era opportuno farlo, Fagioli, mi scusi, mi chiede giustamente un ascoltatore, devo dire la verità, la cosa che mi sono chiesto anch'io leggendo queste cronache, ma non è di fatto un gesto di sottomissione ai vandali? C'è una questione di ordine pubblico, però guarda, è il 2 giugno, la festa della Repubblica, io non mi interessa che questi vengano. Innanzitutto non sono tenuto a organizzare un bel niente, come le dicevo, perché comunque la normativa prevede che si faccia a Roma e nei capoluoghi di provincia, punto. È un di più. Guardi, a me piacerebbe che l'attenzione pubblica si incentrasse magari più sulle cose che si fanno amministrativamente, dove stiamo sanando edifici scolastici, stiamo sanando edifici sportivi che abbiamo trovato in maniera totalmente disastrata. Ci stiamo concentrando a sistemare amministrativamente queste cose. Beh, però lo Stato Fagioli ha anche una sua simbologia, delle sue formalità che sono importanti, ed è importante mantenere, no? Io capisco la sostanza, allora, normativa che impone ai comuni di celebrare queste cose. Non è un obbligo, non c'è una normativa per legge. Se una volta tanto un'attività che poi tanto, le ripeto, poi sai cosa succede? Che si va in piazza, c'è il bel discorso del bello o non bello del sindaco, c'è l'inno, c'è l'alzabandiera, ci sono i rappresentanti istituzionali e poi non c'è una partecipazione vera e propria. Quindi vedremo se magari con questa cosa qualcuno che accende il sentimento nazionale andrà in piazza a festeggiare in libertà. Anche perché poi si sta. Quindi lo festeggerebbe, cioè questo sentimento nazionale lei lo sente, Fagioli? Guardi, ognuno è libero di avere i propri sentimenti e festeggiare le cose come vuole. Quando ci sono queste festività, spesso c'è anche il ponte, le persone prendono e vanno a fare gite fuori porta, c'è chi va a festeggiare come meglio crede, c'è chi viene magari in piazza alla cerimonia istituzionale, mentre chi magari altro. Quindi io credo che ognuno abbia la libertà di festeggiarlo come vuole. Allora, dobbiamo chiudere. Grazie Alessandro Fagioli, sindaco di Saronno, anche se qualche altra domanda ce l'avrei avuta, però traffico platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.